cercami là. Eccomi di nuovo qui. Cinghiale sì, l'unghiale no. Vieni, nascondiamoci. Ma è il momento di cercare un po' più in là, verso le strade delle star. Corro sulla luna dove mamma guarda le mie imprese. Eccomi qui, io lancerò un raggio laser nel cielo. Zorro-ri, che guaio. Zorro-ri, ora batti le forze.